La vita in un film di Franco D'Assisi. Che cosa stanno facendo le bambine? Giocano tranquille. Sembrano noi da piccole. Prima che il letto, il coltello, l'ago di spilla e il balsamo ci inchiodassero in questa parentesi. Ma chi l'ha detta questa cosa? Silvia Plath, prima di ammazzarsi. Sofia, Beatrice sta per avere un bambino. Ecco, raccontale anche tu una cosa. Una qualsiasi, per cui vale la pena di diventare madre. Una? Una. Rossana e io siamo identiche, anche se di aspetto fisico somiglia più al padre. Quando la guardo, mi pare certe volte di amare anche mio marito, tanto gli somiglia. E questa era Due partite, il film di Enzo Monteleone, una clip di Due partite che apre la nostra puntata della vita in un film. 800 24 0024 è il numero di telefono, come sempre, per partecipare qui a Radio 24 a questa nostra trasmissione che giorno per giorno chiede agli ascoltatori in quale film si sono identificati, in quale film hanno visto un pezzo della propria storia. Oggi parliamo di un tema nel quale non è difficile chiaramente rivedersi e di un film che è stato un grande successo cinematografico dopo essere stato un grande successo teatrale. È una cosa abbastanza rara per il cinema italiano, forse le cose funzionassero un po' di più in questo connubio andrebbero meglio un po' per tutti. Difficilmente una pièce italiana contemporanea ha pubblico esaurito per serate e serate, parliamo di prosa ovviamente, difficilmente diventa film e ha lo stesso, anzi un maggiore successo di pubblico. È successo proprio con Due partite, una pièce teatrale appunto che racconta la storia di due partite a carte, sostanzialmente. Questo è quantomeno il legame che c'è fra i due momenti, giocate però almeno a 30 anni di distanza. 30 anni prima troviamo quattro amiche che, appunto, come avete sentito nella clip, osservano anche le figlie fare un po' quello che fanno loro da grandi. 30 anni dopo troviamo quelle figlie cresciute che si confrontano, anche se a distanza, con l'essere a loro volta mamme, donne, e magari questo confronto le porta a verificare le differenze, cosa è cambiato, cosa non è cambiato rispetto alle donne di 30 anni prima. Quindi il confronto generazionale e soprattutto il rapporto madri-figlie è al centro della nostra puntata di oggi qui alla vita in un film. 800 24 0024, come sempre c'è lo spazio per intervenire, per dire quale rapporto madre-figlia o in quale madre, in quale figlia vi siete identificate in un film della storia del cinema. Se avete visto ovviamente Due partite, potete tranquillamente anche raccontarci se vi siete riviste in uno degli otto personaggi che popolano questo film diretto da Enzo Monteleone. L'800 24 0024 è a vostra disposizione anche per portare a casa splendide serate al cinema per l'autunno che sta arrivando. Vi ricordo che c'è anche un numero, come sempre, per i messaggi SMS 349-238-6666. A fare da ospiti in questa nostra puntata abbiamo chiamato due delle protagoniste di questo film, una madre e una figlia. La madre è Marina Massironi, la figlia è Carolina Crescentini, due attrici di sicuro talento, di provato talento, fra le migliori sicuramente delle rispettive generazioni. Noi cominciamo proprio a sentire Marina Massironi partendo da una curiosità, un particolare. In una scena del film Marina Massironi interpreta una delle madri, Claudia, forse il personaggio fra virgolette più normale, più tradizionale, una mamma con tre figli che ha dedicato tutta la vita proprio ad accudire i bambini e si trova sostanzialmente realizzata in questi panni, anche se le sue amiche spesso non capiscono perché. Ecco, questo è un po' il quadro di Claudia. Allora, Marina Massironi, dicevo, in un momento c'è una canzone di Mina, una canzone celebre dell'epoca, L'uomo per me, la ricorderete. E allora, Marina, le ragazze di oggi hanno ancora la ricerca dell'uomo giusto fatto apposta per me fra i loro obiettivi? Ma tantissimo, ormai già per terra sempre, ci chiederemo sempre se è l'uomo giusto per noi. Non credo che cambierà mai una domanda così, di questo genere, insomma. Siamo talmente diversi, distanti, ed è talmente difficile avere un rapporto duraturo, no? Un matrimonio, condurre una vita a due, poi sposati, non sposati, quelle sono scelte diverse. Che è una domanda che non avrà forse mai risposta. È l'uomo per me, nessuno potrà mai dire sì, è l'uomo per me. In assoluto. Vedo anche un ritorno al matrimonio, alla vita di coppia più chiusa, più familiare, un ritorno. Vedo, per esempio, molte amiche molto più giovani di me che stanno molto di più in famiglia di quanto non ci stessi io. hanno un rapporto diverso anche con le madri, anche con i genitori. Ed è un po' forse anche diverso dal rapporto amica-amica che c'è molto spesso tra madre e figlia, no? C'è un rapporto proprio madre e figlia coltivato in quanto tale, in quanto appartenente ad una famiglia e con le diversità generazionali del caso. 800 24 00 24 per le vostre chiamate. La vita in un film oggi si ferma a riflettere sul tema appunto del rapporto madri-figlie, delle generazioni che passano, di come le donne sono cambiate in 30 anni, il tema centrale del film Due partite. Abbiamo detto Marina Massironi una madre, Carolina Crescentini una figlia. E allora Carolina, a te voglio chiedere questo: Due partite racconta, abbiamo detto, la vita di otto donne, prima le madri negli anni 60, poi le figlie ai giorni nostri. Secondo te chi sta meglio? Ma guarda, mentre lo vedi fai mille pensieri diversi, perché vedi le madri che sono completamente subordinate ai mariti, senza una loro forma di affermazione, a parte il ruolo di madre, moglie e donna di casa, e dici, madonna, come stavano le mamme. Poi vedi le figlie assolutamente realizzate, autonome, ma ciniche, sole, senza sogni, senza poesia, senza femminilità, e dici, ma come stavano le figlie? La cosa è che in modi diversi i problemi sono sempre gli stessi, è una condizione ciclica. Io quando l'ho visto, la mia sensazione è stata come se avessimo perso un po' di quella poesia, sogno e fantasia che comunque ti fa stare meglio in qualche modo, anche se le mamme erano frustrate, però avevano i sogni sempre vivi, mentre le figlie sono ciniche, dure e già senza più sogni. Nessuna di loro ha mai lavorato. Loro si vedevano per giocare a carte, ma per raccontarsi di quanto fossero infelici. Mia madre era piuttosto contenta, veramente. Ma su, Cecilia, Dio mio, è molto più contenta adesso che è libera da allevare i coccodrilli. Ma non è vero, ma se lo inventa, mio padre non glielo permetterebbe mai. Lo vedi? Permetterebbe, non permetterebbe? Noi facciamo quello che vogliamo, né bene o né male, ma facciamo quello che vogliamo. Loro al massimo potevano decidere il nome dei figli. No, no, no, aspetta, il mio veramente l'ha deciso mio padre. Neanche quello. Beh, se volete fare un paragone tra noi e loro, dovete prendere me. E chi altri, se no? No, perché io ho fatto l'esatto contrario di quello che ha fatto mia madre. Lei ha rinunciato a suonare. Ha aspettato per tutta la vita mio padre incazzata che tornava dai suoi viaggi. Io suono e Mario mi aspetta per tutta la vita che torno dai miei viaggi incazzata. Cos'è cambiato? Niente, incazzata era lei, incazzata sei tu. Tu però sei una bravissima pianista. E allora eccoci qua, 18:14 minuti, 800 24 00 24. Avete sentito una clip del film Due partite, e noi a questo punto andiamo a sentire come vanno le cose sulle strade, ricordandovi che fra poco saremo ancora qui a sentire Marina Massironi e Carolina Crescentini, protagoniste del film Due partite, parlare di rapporto madri-figlie. 800 24 00 24, raccontateci in quale film avete visto appunto una di queste figure, materna o filiale, come si suol dire, che vi ricorda, insomma, un pezzo della vostra vita. La vita in un film. Siamo qui per il matrimonio. Ci stavi aspettando? Oh mio Dio, sì. Sì. Lo hai trovato? Beh, non esattamente. Ho trovato il DNA di mia madre e ho tre possibili padri. E devo dire a due che sono di troppo, ma a quali due? Ho spedito io gli inviti, mia mamma non sa niente. Sei una smorfiosa, sei uguale a tua madre. Sembra che vi stiate già divertendo, eh? Oh, sì. Anch'io da ragazza. Lo sappiamo. Mamma mia, no, I really know. Mamma, I should never let you go. Erano Meryl Streep e Amanda Seyfried in Mamma Mia, uno dei grandi successi della stagione cinematografica che si è conclusa. Una ragazza che cerca il padre in mezzo a tre, ma il rapporto madre-figlia è importantissimo in questo film. Tra l'altro, questo fatto del diario scoperto dalla ragazza, insomma, penso che tutti i genitori all'ascolto abbiano il terrore che un giorno un figlio da grande possa scoprire un dettaglio, una lettera, una cartolina, una foto, uno scritto che siamo convinti ovviamente di non avere, e che invece possa compromettere il disegno e l'immagine di integrità che pensiamo sempre di avere agli occhi dei nostri figli. Non è quasi mai così. Allora, parliamo appunto di madri e figlie qui alla vita in un film. 800 24 00 24 è il numero di telefono per intervenire e per portare a casa, perché no, anche diverse serate di buon cinema per il prossimo autunno. Noi cominciamo ad ascoltare Monia, che ci chiama da Milano. Buonasera Monia. Buonasera a voi. E complimenti per il nome, molto bello. Grazie, tratto da una canzone ovviamente degli anni 70. E allora, lei che film ha scelto? In quale rapporto madre-figlia, insomma, si è un po' più identificata? Allora, premetto che per fortuna non mi sono identificata, però un film che mi è piaciuto parecchio è stato Il più bel giorno della mia vita. Ecco, perché il film è notevole, forse il più bel film di Cristina Comencini. Tra l'altro abbiamo avuto modo già di trattarlo, che l'avete in un film, quando abbiamo parlato delle figure mitiche ancestrali, in un certo senso. Cioè la figura della nonna, per esempio, perché qui c'è una Virna Lisi, madre e nonna, che è come sempre straordinaria. Ecco, però perché il rapporto madre-figlia di questo film? Ma perché donna Virna Lisi all'inizio donna tutta ad un pezzo, che sicuramente ha problemi con le due figlie, che a loro volta hanno problemi di natura principalmente sentimentale, e poi il loro rapporto come cambia, visto che la nonna incomincia, la loro madre incomincia a spogliarsi, insomma, di quella rigidità. Certo, e quindi me... c'è un cambiamento, c'è una, sicuramente una mutazione all'interno del film. Assolutamente sì, c'è una cosa bellissima, cioè i problemi delle due figlie assolutamente purtroppo reali, dove ribadisco per fortuna ad oggi non mi sono ancora ritrovata, e la madre che diventa la mamma nel senso pieno della parola, che diventa più umana, perché alla fine era vista come un personaggio estremamente rigido nel film. Ecco, allora noi a questo punto ringraziamo Monia da Milano, che porta a casa il cofanetto Wasu 5 serate di grande cinema, per essere stata la prima ascoltatrice ad averci chiamato qui alla Vita in un Film. 800 24 00 24. Grazie Monia, i telefoni sono sempre aperti, raccontateci in quale rapporto madre figlia del cinema, anche non di film incentrati esclusivamente su questo rapporto. Abbiamo sentito appunto la clip di Mamma Mia che vi abbiamo fatto ascoltare, ma ce ne sono ovviamente molte altre di figure di questo tipo. Beh, raccontateci se avete visto, empatizzato anche con uno di questi film qui alla Vita in un Film, dove invece abbiamo scelto un film simbolo, come tutti i giorni facciamo, che è appunto Due partite. Parliamo ancora con Marina Massironi, perché la nostra ascoltatrice ha tirato fuori un tema che è piuttosto interessante, cioè quello del rapporto con i figli, dello sciogliersi nel percorso dell'essere rigidi e del diventare più morbidi. Ebbene, il modello genitoriale. Questo è un altro tema che a volte il film ha affrontato. Nel film Due partite vediamo due categorie, due generazioni di mamme. Quale modello genitore figlio si potrebbe scegliere in questo senso? Le mamme degli anni 60 erano sicuramente molto protettive, pensavano a tutto loro, ma sicuramente più severe, più distanti. C'era una distanza madre figlia o madre figlio. Molte di quelle di oggi sono mamme amiche, è una parola appunto che ha detto Monia poco fa nella sua telefonata. Allora, a quale modello genitoriale crede di più Marina Massironi? Guarda, non lo so, mi manca quello di oggi. Io non sono mamma, sono solo figlia, e mi sono trovata bene come figlia con mia mamma, che aveva appunto questo tipo più tradizionale di metodo educativo, no? Credo che l'approccio sia buono per entrambi, nel senso che stare a sentire, no, che cosa ti dice tuo figlio, insomma, di che cosa ha bisogno, è una caratteristica che appartiene sia alle nostre mamme che alle mamme di oggi, per cui è un buon punto di partenza. Quello di non imporre, no, un'educazione tout court, no, facendo finta che tutti i bambini siano uguali, abbiano le stesse caratteristiche, gli stessi caratteri, eccetera, eccetera. Non so, insomma, a me manca la seconda parte, per cui ti dico, quella mi sembra buona. L'importante è che ci sia elasticità in entrambi i casi. Sono così carine, giocano a essere noi. Si sono vestite da donne, tutte e tre con le borsette. Danno le carte, prendono il tè. Fanno le signore. La tua, Gabriella, si è messa i tacchi alti e rossetto. Ah. E racconta alle altre due che suo marito non c'è mai e che a lei tocca fare tutto, che lui è un egoista e che lei ha sacrificato la sua vita a lui, che ha smesso di suonare e si sente sola, ma così tanto sola. Ah, sì. No, ma lo dice, no? Fingendo di singhiozzare, ma guarda che è uno spasso tua figlia, è un'attrice nata. Straordinaria Isabella Ferrari in questa clip, e questo continuo rimando a quello che i bambini fanno imitando le mamme, e questo è a giocare a fare le mamme, poi sostanzialmente, che è uno dei giochi più antichi del mondo. C'è un altro ascoltatore dalla provincia di Milano, l'800 24 00 24, provincia di Milano particolarmente reattiva oggi su questo tema, madre e figlie o figli in generale. Giancarlo, buonasera. Buonasera. Buonasera, allora ci dica un po' quale film ha scelto. No, io avevo scelto prima, scusi, non è la provincia di Milano, ma è la provincia di Pisa. Ho letto quello che mi è stato detto. Provincia di Pisa. Sì, sì, perfetto. Correggiamo. No, no, ma la cosa è Goodbye Lenin. Nel senso, io non è che è un problema di identificazione, perché difficilmente guardo un film con un progetto di identificazione, ma semplicemente sul discorso che stiamo facendo con una serie di amici di questo periodo qui, cioè col cambiamento della società, o meglio ancora, con la mancanza della società attuale, questa figura di questa donna che si risveglia dopo il coma, che si ritrova un mondo completamente cambiato e diverso. Oggi, ad esempio, mi ritrovo con un mondo in cui praticamente, soprattutto in Italia ma anche all'estero, manca una società, manca dei rapporti sociali, cioè una società ormai strettamente individualista, strettamente basata sul singolo, sulle esigenze del singolo, al limite del tuo gruppo ristretto di famiglia. Non hai più dei rapporti sociali, neanche nei piccoli centri dove della provincia italiana. Cioè, beh, insomma, se mi cadono i piccoli centri mi finisce un mito in un certo senso. No, Giancarlo, io capisco quello che lei vuole dire, anche se è leggermente fuori dal tema della nostra puntata, però è molto interessante, quindi noi quando le opinioni sono interessanti ci piacciono lo stesso. Voglio dire che ovviamente il tema non è quello di mettersi con un progetto di identificarsi in un film, perché vuol dire che si ha qualche problema, bisogna risolverlo in qualche modo. Però il cinema a volte è un'arte che ci piove addosso. Quando siamo al cinema, magari anche vedere la commedia più scalcagnata, può capitare che quella cosa che vediamo ci faccia pensare a un momento della nostra vita, ci faccia pensare, ma se io fossi lì farei così. Ecco, questo è un po', lo spiego a lei, ma per spiegarlo a chi ci ascolta, è un po' il tema e l'obiettivo della nostra trasmissione. Dopodiché quello che lei dice è interessante. Tra l'altro in Goodbye Lenin c'è questo rapporto figlio-madre, con questa madre che cade in coma esattamente nel momento in cui cade anche il muro di Berlino, e quando si risveglia è tutto cambiato e c'è una tenerezza infinita da parte del figlio nel tentativo di ricostruire giorno per giorno un mondo nel quale lei senta di avere punti di riferimento. Ecco, mi piace molto quello che lei ha detto. Noi non abbiamo avuto bisogno di un muro di Berlino caduto negli ultimi 10 anni, ma spesso ci troviamo lo stesso senza punti di riferimento, il che insomma non è che ci lasci particolarmente felici. Però ecco, i piccoli centri, almeno quelli cerchiamo di salvare, dove forse ancora, senza essere banali, però la vita ancora un attimo respirabile, anche se io sono un non sono un detrattore delle città come poli di aggregazione, tutt'altro. Beh, fine della parentesi, perché c'è all'800240024 Michele da Campobasso, spero che sia da Campobasso, che incombe. Buonasera Michele. Buonasera, sono Michele, sono nella provincia di Campobasso. Vabbè, però insomma, almeno la provincia l'abbiamo azzeccata stavolta. No, ma innanzitutto volevo farvi i complimenti, perché di trasmissioni intelligenti ce ne sono sempre di meno, insomma, quindi meno male che ci sono comunque, e la vostra è comunque tra quelle. Niente, io il film in cui mi sono identificato, lo dicevo prima con la vostra collaboratrice, è L'età barbariche. Certo. Ah, il sequel sì, dell'invasione di barbariche. Ecco, sì, ci dica perché. Sì. Ma veramente aveva poca attinenza col primo, io vado molto spesso al cinema, quindi vedo molti film d'autore, quindi era un tema completamente diverso. Il primo parlava del professore universitario, eccetera, eccetera, l'altro invece di quest'uomo che immaginava, e certe volte vedeva anche fisicamente, di essere di volta in volta qualcos'altro, un eroe. Certo, sì, sì. Esatto, beh, lui era uno che viaggiava molto con la fantasia, effettivamente. Viaggiava molto con la fantasia, aveva dei pensieri, diciamo, piuttosto discutibili, però li aveva con molto candore. Io diciamo Michele, giustamente, che i suoi pensieri erano quelli che spesso facciamo noi fermi al semaforo, piuttosto che nel momento magari in cui ci bolle un po' il sangue per qualcosa che va storto. Ecco, lui materializzava questi pensieri, diciamo, sì. Non arrivava a fare quello che Michael Douglas faceva in Un giorno di ordinaria follia, cioè, che li metteva in pratica. Ecco. Però effettivamente molto, molto divertente quel film, dove ci sono anche figure femminili importanti. Noi la ringraziamo perché siamo veramente di corsa, ma abbiamo anche un'altra ascoltatrice che vogliamo sentire, Carla da Bologna. Buonasera Carla, 30 secondi per dirci il suo film. Buonasera, il mio film è I ponti di Madison County, con una Meryl Streep strepitosa, nella quale io mi ci sono ritrovata moltissimo, perché questa donna che muore e la figlia va a ritrovare delle lettere dove scopre una seconda vita della madre, e quindi per me è stata la stessa cosa, e naturalmente è molto emozionante quando vai a leggere delle cose e che come figlia magari ti sono capitate, non hai avuto l'opportunità di parlare con la madre. E allora, anche con i ponti di Madison County, noi ringraziamo Cara da Bologna, andiamo verso il finale e come sempre la domanda che conclude la nostra trasmissione è rivolta alle nostre due attrici ospiti di oggi, Marina Massironi e Carolina Crescentini: qual è il film nel quale avete rivisto un pezzo di voi stesse? Ma io in questo film mi sono rivista in tutti i personaggi, perché a parte che credo che proprio il lavoro di scrittura di Cristina Gomencini sia stato molto interessante proprio per questo, perché in tutte le otto donne, non soltanto nelle quattro madri, non solo nelle quattro figlie, ma proprio in tutte otto, tra tutte otto noi abbiamo una donna completa, ci sono tutte le sfaccettature, tutte le contraddizioni che sono proprie di noi donne, in cui io mi riconosco perfettamente, quindi io mi riconosco per un lato in una figlia, per un altro lato in una madre, insomma in tutte e otto ho trovato qualcosa di me. Però non c'è un personaggio che mi riassuma, cioè non credo di essere mai stata me stessa in nessuno di quelli che ho fatto. Ce ne sono diversi, però io dico sempre che mi dovrebbero far fare Bridget Jones perché sono molto simile a lei. Ogni tanto quando lo rivedo mi rendo conto di essere abbastanza goffa quanto lei. È che lei inciampa, casca, fa figuracce, poi si ritira su e fa finta di niente, ma io più o meno faccio le stesse cose. E allora noi salutiamo Marina Massironi e Carolina Crescentini, protagoniste del film Due Partite, che tra l'altro proprio in questi giorni esce anche in DVD. Appuntamento domani alla Vita in un Film, sarà con noi Nino Castelnuovo, il tema sarà Amori Impossibili, Amori Perduti. A domani.